Europa 24. That's on the humanitarian front, we are really ready to provide assistance as soon as access is available. Un saluto da Anna Migliorati. Europa, dunque, come sentivate, che rinnova la sua disponibilità sul fronte siriano, con le notizie confuse di queste ore, come sentivamo. Pronti ad intervenire ad Aleppo per gli aiuti umanitari, ha ribadito il portavoce della Commissione questa mattina a Bruxelles all'indomani del lungo vertice europeo, conclusosi solo poco prima di mezzanotte. Reagisce intanto sul fronte diplomatico Mosca. L'Unione Europea ha dimostrato ancora una volta la propria debolezza, dice il ministro degli esteri russo in una nota commentando la decisione dei 28 leader europei di rinnovare le sanzioni economiche contro Mosca, e attacca il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Ha dimostrato, dice, di essere completamente dipendente dagli Stati Uniti in questa questione, contrariamente agli interessi dei paesi membri notevolmente danneggiati dal confronto sanzionatorio contro Mosca. Un vertice complesso su molti fronti, quello della notte, soprattutto per la questione migranti, come avevamo anticipato. Una maratona di quasi 12 ore per il Consiglio dei leader europei ieri a Bruxelles. Un vertice che ha toccato molti temi, dalle sanzioni alla Russia in scadenza a gennaio, prorogate di 6 mesi, alla situazione in Siria, ancora un nodo diplomatico da sciogliere, passando per le tensioni sulla procedura da seguire per la Brexit del Regno Unito, fino alla riforma dei trattati di Dublino entro giugno per la questione migranti. Discussione rinviata che passa al tavolo della presidenza slovacca, più in linea coi paesi dell'est che sono contrari alla ricollocazione, al tavolo della presidenza maltese, più allineata con l'Italia, anche se non è detto che si concluderà entro giugno. La riforma del regolamento di Dublino, ovvero del sistema di asilo europeo, che attualmente penalizza Italia e Grecia perché prevede che i migranti restino nei paesi nel quali avviene la loro prima identificazione, dovrà essere compiuta infatti sotto la presidenza di turno maltese. Come spiega l'ex ministro degli esteri all'esordio come premier a Bruxelles, Paolo Gentiloni, che sottolinea però la lentezza dell'Europa sulla questione migranti. Noi abbiamo chiesto e ottenuto che la discussione sulla revisione del regolamento, cosiddetto regolamento di Dublino, fosse rinviata. A spingere per inserire nelle conclusioni del summit un lasso di tempo entro cui compiere la riforma è stata soprattutto la Germania, con la cancelliera Angela Merkel, che lega alla riforma del regolamento di Dublino il pieno ripristino di Schengen. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk sulla revisione del regolamento di Dublino ha fatto sapere che abbiamo deciso di andare avanti sulla cosiddetta solidarietà effettiva durante la presidenza maltese. E lo faremo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Più Europa intanto nello spazio. Galileo diventa operativo e contemporaneamente si tinge sempre più di azzurro, lanciati primi servizi offerti gratuitamente dal GPS europeo, nato per dare un'alternativa al monopolio statunitense. La società Space Opal, guidata da Leonardo tramite la controllata Telespazio, ha firmato a Bruxelles un contratto dal valore di 1,5 miliardi di euro per la gestione dei prossimi 10 anni del programma di navigazione e localizzazione satellitare. Galileo, ricordiamo che è in orbita 18 satelliti sui 30 previsti, lavorerà per ora in interoperatività con il GPS. Il sistema europeo diventerà pienamente operativo nel 2020. Nel frattempo dovrebbero aumentare i dispositivi in grado di sfruttare il suo segnale. Al momento lo può solo lo smart spagnolo BQ e una serie di navigatori, la cui compatibilità però, ricordiamo, sarà obbligatoria per tutte le auto nuove in vendita nell'Unione Europea dal 2018. Ma ci fermiamo qui per ora. L'Europa, come sempre, vi aspetta questa sera alle 21, effetto notte. Ancora un buon pomeriggio da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.